Non so, adesso ti tocca, Nicola, perché abbiamo invitato, cioè, gli altri vignaioli che partecipano alla carta, però o qualcuno non c'è, disperso nella neve, o è da solo di là, tu sei l'unico che sei venuto di qua, quindi ci devi raccontare invece com'è l'esperienza del dare il vino a Leoncavallo, al Folletto. A Gabriele non glielo dai. Perché, insomma, le differenze rispetto ad altre,